Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Doppio appuntamento con il tema della casa questa settimana a Salva Danaio. D'altronde, come già abbiamo ricordato ieri, è un tema gettonatissimo. Abbiamo ricevuto decine di telefonate ieri per tornare ad affrontare la questione degli sgravi fiscali, degli incentivi fiscali che si possono ottenere per chi ristruttura la propria abitazione. Oggi invece ritorniamo al tema dell'acquisto, della compravendita. Perché? Perché in un frangente delicato come quello dell'acquisto, appunto della vendita di un'abitazione, di una casa, è importantissimo fare riferimento ad un professionista capace di guidare il proprietario e l'acquirente in un mercato complesso e non privo di rischi come quello immobiliare. Oltretutto la crisi, come sapete, ha peggiorato anche la situazione. È importante avere la certezza che la persona a cui ci si rivolge sia affidabile, sia competente, in modo da evitare brutti incontri e pessime sorprese. Servizio non adeguato, provvigioni salate, fatture non emesse, comportamenti non professionali. E poi ci sono delle novità che riguardano gli agenti immobiliari, un esercito di professionisti sul territorio, almeno 150.000, che tra qualche tempo dovranno iscriversi, lo dovranno fare entro il 12 maggio, dovranno comunicare a REA, il registro degli esercenti di attività, l'elenco aggiornato delle loro sedi e dei soggetti abilitati. L'iscrizione a questo elenco dà la garanzia che la persona scelta per una trattativa sia un professionista qualificato e che rispetta i termini di legge. Salva Danaio dedica allora la puntata a questo tema, naturalmente cercando di offrirvi tutti i consigli utili per rapportarvi al meglio e tutelarvi al meglio, se c'è bisogno anche di doverlo fare, nel rapporto appunto con gli agenti immobiliari. Con noi questa mattina Paola Dezza, collega del Sole 24 Ore, in particolar modo firma di Casa 24 Plus. Paola, buongiorno. Ciao, bentornata, buongiorno. Grazie. E con noi naturalmente i rappresentanti delle associazioni più rappresentative di queste figure professionali. Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tra l'altro questa associazione ha presentato a fine gennaio il manifesto degli agenti immobiliari con 11 punti che sono stati individuati anche con l'obiettivo di sbloccare questo mercato in difficoltà, ma soprattutto è un manifesto con grande chiarezza rivolto a tutti i soggetti politici in campo in questo momento per la competizione elettorale. Loro hanno detto: noi presentiamo questo manifesto, non ci interessa chi vorrà adottarlo e prenderselo a cuore e chi salirà naturalmente al Parlamento e al Governo nelle prossime settimane. L'importante è che si prenda con serietà cura appunto di questa emergenza nel nostro paese, che è stata dimostrata anche ieri dalla giornata della collera che è stata organizzata appunto a Piazza Affari da tutti gli operatori del settore edile. Poi Paola Dezza, magari su questo faremo un commento anche. Con noi anche Valerio Angeletti, presidente nazionale della FIMA, che è la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. Presidente Angeletti, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre, ci aspettiamo le testimonianze, i racconti dei nostri ascoltatori o anche le vostre domande. Se siete in procinto di rivolgervi ad un'agenzia immobiliare perché appunto siete pronti, avete, fortunati voi, la risorsa economica anche per fare l'acquisto della vostra casa, insomma, quali sono i dubbi che non avete ancora risolto e chiarito, chiamateci all'800240024, scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Borsa negativa in questo momento: Milano perde l'1,11%, Parigi perde un punto, Francoforte -1,22%, Londra -0,8%. Dopo i dati sul prodotto interno lordo di molte economie, anche quello dell'Eurozona, le piazze finanziarie hanno imboccato la strada del ribasso e si mantengono su questi livelli, ma insomma non è un problema nuovo che la stagnazione ormai sia la padrona assoluta dell'economia dell'Eurozona, ma il PIL dell'Eurozona è sceso dello 0,6% nel quarto trimestre. Sono andate male appunto anche le altre economie tutte le economie del vecchio continente. Forse in qualche circostanza i dati sono peggiori delle attese e il mercato stamattina appunto ne risente. A Milano vediamo un po' i casi che hanno dominato negli ultimi giorni, come stanno andando questa mattina. Volevo verificare intanto Finmeccanica, che era partita di nuovo male oggi, poi ha recuperato un punto e mezzo e adesso perde di nuovo l'1,65%. Per quello che riguarda invece il settore bancario, sono in questo momento in positivo Mediobanca, più 1,40%, in negativo invece tutti gli altri. E le vendite più forti sono su Intesa, che perde 2 punti, Popolare dell'Emilia Romagna, -2,6%, il Banco Popolare, -1,53%, Monte dei Paschi anche oggi perde oltre 1 punto percentuale. I temi sono un po' questi, direi che però l'euro sul dollaro, in questo momento si parla anche di guerra delle valute, l'euro si rafforza di nuovo sul biglietto verde 1,34,79, lo spread fra BTP e Bund questa mattina viaggiava poco al di sopra dei 270 punti base. Per la borsa è tutto. Che film abbiamo scelto oggi per rappresentare il nostro tema? Sentiamo. Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cottura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Angolo ricreativo. Angolo TV. Angolo telefono con sediolino incorporato, pronto? Angolo pranzo-cena, con sedie ribaltabili. E l'angolo letto? A letto ci si va dopo cena, no? Sì. Guardi, eccolo qua. Che ne dice, eh? È bello e funzionale, e poi è leggerissimo. Ecco fatto. Era una casa molto carina. Paola, hai riconosciuto il film perché tuo marito te l'ha fatto vedere 200 volte. Infatti. Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, peraltro una ricostruzione tanto attuale quanto il film ha tanti anni invece, perché credo che abbia almeno una 30 d'anni questo film. Adesso magari lo recupero, ma non l'abbiamo messa l'età, però effettivamente spazi sempre più piccoli, soprattutto a Milano, e poi insomma questi agenti immobiliari che ti raccontano con grande entusiasmo le qualità, le caratteristiche dell'abitazione. Poi come va a finire questa trattativa lo sentiremo in un altro brano, appunto, che abbiamo scelto per la seconda parte del nostro programma. Agenti immobiliari, Paola, voi monitorate spesso con Casa 24 Plus appunto questo mercato, è una professionalità che naturalmente ha necessariamente dovuto cambiare pelle anche per effetto della crisi. Sì, perché diciamo che negli anni del boom molti si sono improvvisati agenti immobiliari con anche buoni ritorni, perché ci sono stati anni in cui si riusciva a vendere appartamenti, non dico al telefono, ma insomma in poco tempo. Chiaramente la crisi ha ridimensionato il mercato immobiliare, ha ridimensionato anche la professione, quindi chi si era improvvisato ha lasciato spesso, ci sono state molte agenzie chiuse, si parla di una chiusura del 7-8% di agenzie solo nel 2012 e di almeno un calo del 4-5% nell'anno che stiamo vivendo. Questo da un lato è positivo, perché significa che rimangono forse le professionalità più esperte, cioè chi si è improvvisato dopo aver diciamo incamerato una serie di guadagni non riesce poi a portare avanti l'attività, e quindi da questo punto di vista è positivo. Chiaramente la crisi è positiva anche per il cliente finale, perché può contrattare meglio le provvigioni, può scegliere meglio la gente e cercare di trovare un professionista che veramente sia esperto del mercato, perché troppe volte appunto si finisce nelle mani di persone appunto improvvisate e che non sono poi in grado non solo di portare avanti la trattativa, ma poi di aiutare nella scelta il cliente finale. Chiaramente. Devo dire che le cose che più frequentemente capitano, qualcuna ce la sta già raccontando qualche ascoltatore, un'altra tipica, questa l'ho sentita anche in maniera ricorrente da trattative che si sono concluse che hanno riguardato amici, un agente immobiliare che una volta che gli hai dato la provvigione sparisce, non ti segue più in niente, qualora si verifica qualunque problema. Non so se ci sia anche effettivamente un obbligo da parte del professionista di continuare appunto ad assistere il suo cliente una volta che dal punto di vista economico il rapporto si sia risolto. Paola, ma diciamo che resta è buona buon regola senso, nel senso, a me è proprio anche capitato in maniera personale, perché sto cambiando casa, ho trovato la persona che ha venduto il mio appartamento che è arrivato fino al rogito, quindi diciamo ci ha assistito fino alla fine con grande professionalità. Non ho trovato la stessa cosa dalla gente che invece mi ha venduto la nuova casa. Ma tu gli hai detto, lei non sa chi sono io, che sono Paola Dezza del Sole 24 Ore, ma a parte gli scherzi, no, noi non utilizziamo questi mezzucci e quindi ci capitano le stesse medesime disavventure di tutti gli altri. Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, lo ricordo ancora, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Voi, presentando il vostro manifesto nei giorni scorsi, avete dato anche qualche cifra, ricordato come dal punto di vista numerico sta cambiando il vostro mercato, perché dalle oltre 30.000 agenzie di almeno un paio d'anni fa, solo nel 2012 c'è stato un calo del 7-8% e prevedete una ulteriore riduzione numerica in quest'anno, anche se la riduzione molto spesso è riconducibile anche al fatto che molte agenzie si consorziano, si mettono insieme, naturalmente, perché l'unione fa la forza, si fanno un po' anche di risparmi, di economia di scala, per cui anche voi dovete aggregarvi qualche volta e condividere la clientela. Righi. Sì, questo è lo scopo, ma l'unione di tante agenzie, quindi la creazione di questi gruppi, è data anche dal fatto che all'interno di un'agenzia, cioè le agenzie nuove che si stanno formando, questo nuovo modo di fare agenzia immobiliare, c'è bisogno di molta professionalità e di offrire un servizio multidisciplinare, quindi l'agente immobiliare si deve informare i propri clienti sul fisco, sulle costruzioni, sulle modalità di costruzione, su tutta una serie di normative che oggi sono molto stringenti per coloro i quali si accingono a comprare una casa. Quindi la nostra legge che è del 1989, noi riteniamo non sia più adeguata né per tutelare, diciamo, il cliente, né che possa esprimere appieno quelle che sono le esigenze oggi che il mercato richiede a un agente immobiliare, che per prima cosa deve mettere al centro il cliente e la sua tutela. Come giustamente diceva Paola Dezza prima, negli anni del boom economico molti si sono improvvisati, molti hanno fatto i venditori tra virgolette di case, dando un danno al nostro settore, un settore che vede però il 40% delle compravendite fatte da abusivi, che vengono classificati il 40% come agenti. È una cifra incredibile, Presidente. Sì, perché oggi dai portieri ai fornai agli abusivi stessi, che sono molte volte anche all'interno delle agenzie, perché vi sono strutture molteplici che hanno 10-12 persone all'interno dell'agenzia, ma casomai ritroviamo solo uno o due agenti immobiliari all'interno di quelle strutture. Quindi è un mercato non omogeneo, che non offre al consumatore appunto un'omogeneità di servizi. Su questo FIAIP si sta battendo da molto tempo affinché venga emanata una legge che vada a rinnovare la legge appunto dell'89, che ormai è desueta e non è più attinente al mercato attuale. Hai voglia di organizzare le giornate della collera, Paola? Di fronte a numeri di questo tipo io mi chiedo anche come ci si possa difendere, perché io magari mi rendo anche conto che uno che vuole spendere poco percepisce di rivolgersi ad una professionalità di questo tipo e gli sta bene, ma molto spesso in realtà ci si relaziona a professionalità di dubbia qualità in maniera del tutto inconsapevole. Infatti, poi ricordiamo che la compravendita immobiliare è una compravendita complessa, cioè ci si informa molto bene quando appunto si compra una macchina e molto meno quando si compra un appartamento. L'appartamento può avere delle insidie, possono esserci appunto dei casi di nuda proprietà, di usufrutto, quindi anche situazioni abbastanza complesse, per cui se non si è assistiti da un professionista preparato è difficile poi alla fine riuscire ad avere un iter sereno per infatti, l'acquisto della casa. Quindi diciamo che molto spesso, prima di prendere l'incarico, anche l'agente immobiliare, io capisco che voglia avere la disponibilità del numero maggiore possibile di immobili per proporre alla propria clientela, ma magari anche l'agente forse una bella selezione deve farla. Comunque Giovanni, io da tutto ieri che la chiamo Giovanni, Presidente Angeletti, lo sa? Vabbè. Questo non me ne ero accorto. Ma sì, invece guardi, le assicuro che in redazione tutto il giorno che ero convinta che si chiamasse così. Non so per quale motivo, sono quelle situazioni appunto un po' curiose. Ieri è stata una giornata anche particolare, perché ho fatto una conduzione di salvadanaio ieri mattina dove non mi uscivano le parole. Comunque, qualche volta capita. Valerio Angeletti, presidente della FIMA, che cosa ne pensa rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? La compravendita della casa è un atto che molto spesso è definitivo anche per una famiglia, quindi dovrebbe essere impostato molto bene sin dall'inizio. servizio, e qui l'agente immobiliare qualche volta riconosco anche che, oltre a fare, come dire, una funzione, a esercitare una funzione di tipo commerciale, deve fare anche un po' lo psichiatra, lo psicologo per il venditore, per l'acquirente. E non è tante volte un lavoro facile. Noi tante volte ne dipingiamo, come dire, un'immagine pessima, però devo dire che qualche volta anche voi avete una pazienza. Angeletti. Abbiamo necessità sicuramente di una pazienza oltre i limiti a volte, ma è giusto, condivido assolutamente tutto quello che si è detto ora. Mi piace però focalizzare anche l'attenzione su un aspetto. L'agente immobiliare è un professionista della mediazione e proprio nella sua funzione è l'anello di congiungimento tra il consumatore che vuol vendere un immobile e l'acquirente che vuol comprare un immobile, che in certe situazioni possono sembrare due figure dotate di forza o di solidità diversa, e quindi magari una necessità di avere più tutela dell'altra, ma in effetti alla fine della transazione uno si spoglia di un bene in cambio del denaro e l'altro si spoglia del denaro in cambio del bene. Quindi lo sforzo che fa l'agente immobiliare, al di là giustamente di inseguire un percorso commerciale, è e dovrebbe essere quello di mettere il venditore nelle condizioni migliori per proporre un immobile sul mercato regolare, controllato, verificato, e dare all'acquirente tutte le informazioni necessarie anche su eventuali problemi, perché poi alla fine la maggior parte dei problemi si possono e basta sapere che esistono e come si fa, si possono risolvere. Mm-hmm. Però occorre dare l'informazione, e su questo è giusto che si arrivi ad avere un minimo di servizi, un minimo di attività che l'agenzia immobiliare deve poter garantire ad entrambe le parti, al venditore assistendolo e dandogli informazioni di cui magari lui non è a conoscenza, della situazione catastale, urbanistica, della casa, all'acquirente, di quelli che sono i percorsi migliori per poter arrivare alla definizione di quello che è il suo sogno di acquisto. Ecco, tra l'altro sarebbe interessante anche verificare che cosa succede qualora il rapporto non si costruisca secondo i criteri appunto che Angeletti ci indicava, perché alcuni ascoltatori sollevano la questione della responsabilità, a parte il fatto di una compravendita che magari non va a buon fine, ma qualora andasse a buon fine e poi ci si accorge di qualcosa che non funziona nella casa, eccetera, il mediatore ha responsabilità di qualcosa? Ci si può rivalere in qualche maniera? Io non credo che sia possibile, però magari se volete di tutto questo parliamo subito dopo il nostro primo blocco pubblicitario, 800 24 00 24. Naturalmente risponderemo anche a tutte le interessanti segnalazioni che ci stanno facendo gli ascoltatori, e poi sentiremo Edoardo da Roma, il primo ascoltatore di oggi già prenotato, a tra pochissimo. La finestra non c'è. Sorpassata. Venga qua, guardi. Questa è l'aria calda. Qui c'è l'aria fredda, questo è il deumidificatore. Che se ne fa della finestra? Beh, niente. Soddisfatto? Sì. Tenga. Grazie. Ah, un'avvertenza. Siccome i vicini odiano i rumori, la prego di non dare qui dentro ricevimenti, congressi, feste da ballo. Senz'altro. Senta, mi deve come cauzione un mese anticipato. 50.000 al giorno fa 1.500.000. Così tanto? Prego. Questo è 1.000.000? Sì, ho detto 1.500.000. Questo è mezzo? Sì, più 200.000 per il deposito delle bollette luce e telefono. Sono 300.000. Più 79.000 come canone della televisione. Vabbè, comunque mi deve... Più 150.000 per eventuale trasporto. Trasporto di che cosa? Trasporto funebre, non so, faccio il caso che le venga un colpo, una trombosi, un infarto. Ma chi la trasporta? Casa mia. Beh, questo era un agente immobiliare fin troppo meticoloso, direi, perché addirittura si è immaginato degli scenari di fantascienza per il povero malcapitato Artemio, il contadino che viveva a Borgo Trecase, questo piccolissimo paese della campagna pavese, Artemio interpretato appunto da Renato Bozzetto, che poi ad un certo punto decide di lasciare tutto, a 40 anni tenta la fortuna e va a Milano e si imbatte in questo agente immobiliare che gli offre questa microscopica abitazione. Naturalmente qui ci siamo imbattuti nella parte in cui naturalmente esce fuori la trattativa per le provvigioni, e questo è il tema di cui parliamo questa mattina, il rapporto tra chi vuol comprare casa, chi vuole venderla, con l'agenzia immobiliare, un mercato di riferimento, quello degli agenti immobiliari, che negli ultimi anni è stato protagonista anche di una forte selezione, complice la crisi appunto del mercato immobiliare, il radicale calo delle compravendite, e poi anche perché forse la famiglia italiana, il consumatore, ha imparato un po' di più ad individuare il professionista davvero qualificato. Peraltro, ancora qualche numero, Paola, con il quale possiamo descrivere un po' qual è l'andamento del settore immobiliare in questo momento, ricordiamo, dopo la giornata della collera organizzata ieri a Piazza Affari. Infatti, ieri c'è stata questa manifestazione molto importante per le voci del settore, hanno partecipato le associazioni e da tempo comunque il settore manifesta il proprio disagio per una crisi che è ormai iniziata da qualche anno, che non ha al momento nessuna via d'uscita, ma soprattutto è un settore che in questo momento non è ancora riuscito a farsi ascoltare dal governo. Probabilmente il governo Monti è stato impegnato con altre urgenze, ma oggi questa è un'urgenza, perché il settore immobiliare per esteso valeva un quinto del PIL, ma ha perso dal 2008 due punti percentuali sul PIL, ha perso 550.000 posti di lavoro, considerando anche tutto l'indotto. E chiaramente i bonus per le ristrutturazioni non sono stati sufficienti a far ripartire il settore. Il settore residenziale, diciamo, che è la parte predominante del settore immobiliare per quanto riguarda le transazioni, soffre tantissimo, è quello che soffre di più, e dai dati appunto degli osservatori, ma soprattutto dell'Agenzia del Territorio, è emerso che quest'anno dovremmo toccare un valore di transazioni che è la metà del picco del 2006, quindi dalle 860.000 quest'anno dovrebbe si è chiuso, diciamo, il 2012 intorno alle 460.000. Quindi, insomma, anche queste cifre portano a considerare che l'agente immobiliare che ha dei clienti si deve tenere stretti, portando avanti le trattative con grande serietà e professionalità. Cominciamo a sentire, vi ricordo, gli altri nostri due ospiti, presidenti delle due più grandi associazioni rappresentative appunto dei mediatori e degli agenti immobiliari: Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, e Valerio Angeletti, presidente nazionale della FIMA. Direi anche un paio di ascoltatori, così vivacizziamo un po' il nostro dibattito di questa mattina. Mimmo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda è questa. Per quanto riguarda le agenzie immobiliari, hanno una percentuale che si aggira intorno al 3% del valore dell'immobile. Sì, diciamo che loro dicono che è quella, poi qualcuno chiede il 4%, qualcuno con il quale si tratta in maniera estenuante forse un po' scende, però dicono che insomma intorno al 3% ci si debba orientare come provvigione. Mimmo, sì. Si può procedere a una trattativa con l'agenzia, certo, e trovare un accordo. Guardi, se le dico, la trattativa problema che ha fatto Paola Dezza li ha estenuati, i suoi agenti, ci dica, Mimmo. Sì. Il problema mio è un altro, cioè io su questo importo dell'agenzia, che si può aggirare su una casa media di intorno ai 200.000 euro, diciamo il 3%, 6.000 euro di provvigioni, pago un 21% di IVA, che non posso detrarre come privato, non mi posso scaricare IVA da nessuna parte. Inoltre posso detrarre di questo importo soltanto il 19% con un massimo di 900 euro. Ha senso tutto questo? Mimmo, no, cioè, ovviamente, come dire, così di prima acchito ci sembra evidentemente di no. Anche questo aspetto, Paolo Righi, è contenuto nel vostro manifesto, dovrebbe essere rivisitato e corretto, secondo lei, in una nuova normativa fiscale che vi interessi? Sì, noi sono anni che proponiamo che anche per un conflitto di interessi tra l'agente immobiliare e il cliente, che l'IVA delle nostre fatture sia equiparata al titolo che viene acquistato, quindi al bene principale. Se si tratta di prima casa, alla percentuale della prima casa, di seconda casa altrettanto. Quindi l'ascoltatore Mimmo ha detto una cosa correttissima, che è un frutto di una battaglia ormai decennale della nostra federazione, dal 2006, anzi sono 6 anni che diciamo questa cosa. Purtroppo, come per tante altre cose, la politica è sorda, ecco perché in questa campagna elettorale tante associazioni si stanno muovendo per rimarcare queste criticità, che sono molto molto forti. Certo. Presidente Angeletti, allora ci dica un po' quanta responsabilità in una azione di compravendita, in una trattativa, nell'agente immobiliare. Chiaramente deve essere intanto anche lui completamente a conoscenza delle qualità, delle caratteristiche dell'immobile che sta trattando, no? Probabilmente qualche cosa può essere sfuggito anche lui può essere non a conoscenza di tutto quanto, qualora l'immobile abbia dei vizi, dei difetti e tante altre problematiche. Oppure c'è l'altro famoso problema del carico delle spese condominiali vecchie, che spesso non è un tema sul quale non si riesce ad avere mai una conoscenza completa. Se una trattativa viene condotta in maniera non soddisfacente per le parti direttamente interessate, quanto ne risponde l'agente immobiliare? Anzi, guardi, prima di rispondermi, Presidente, le faccio sentire Gianni Da Lucca, che credo avesse anche proprio un quesito su questo tema. Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, allora, io ho acquistato un immobile e poi ho fatto una trattativa preliminare per un altro immobile. Per il primo immobile l'ho acquistato, poi è venuto fuori che praticamente non ci sono le altezze dei bagni che sono a norma e quindi in teoria mi hanno rilasciato un'abitabilità, quindi dovremmo anche trovare la responsabilità, non so, di chi l'ha rilasciato o dell'architetto. Però ecco, volevo sapere se questa cosa può essere anche imputato chi ha fatto da tramite. Seconda cosa, ho fatto un preliminare di acquisto di un altro immobile dove abbiamo scritto che mi hanno rilasciato soltanto se mi avessero rilasciato un mutuo. Scrivendo solo un mutuo, a me hanno rilasciato un mutuo molto inferiore a quello che mi serviva e praticamente il signore che mi vendeva la casa si è tenuto i soldi della caparra. E quindi volevo sapere se anche queste cose possono essere imputabili da un punto di vista legale. Quanta responsabilità c'è per quanto riguarda l'immobiliare? La ringrazio Gianni per essere andato così dritto al punto dell'aspetto che stavamo affrontando. Presidente Angeletti, che cosa ci dice? Diciamo che esistono tutta una serie di responsabilità. Intanto delle responsabilità professionali, chi fa questa attività da anni e rimane sul mercato perché ha una conoscenza del mercato, conoscenze tecniche e vuole continuare a esserci, non può sottrarsi da tali responsabilità. Esistono poi delle responsabilità che sono state non per legge ma per sentenze comunque riconosciute all'agente immobiliare e sono tutte quelle responsabilità che l'agente immobiliare avrebbe quelle verifiche che l'agente immobiliare avrebbe potuto fare con la normale gestione della pratica, per cui parliamo di eventuali ipoteche o situazioni di atti non idonei. Sicuramente quello che il radioascoltatore prima ha esposto, a mio avviso non è riconducibile a una responsabilità dell'agente immobiliare se a fronte di un'agibilità rilasciata da un organo amministrativo, questa è stata fatta su su aspetti tecnici non veritieri, perché chiaramente l'agente immobiliare può verificare se esiste l'abitabilità, se non esiste può scendere nel dettaglio perché non è stata rilasciata, ma a fronte di un'agibilità esistente è chiaro che dà per buono ciò che il venditore e di conseguenza il venditore, certo. Esatto. Quindi, ma anche quello dei costi di condominio, basta un po' di attenzione e prima dell'atto far rilasciare dall'amministratore una liberatoria che non sorgono problemi. Arrivare ad avere problemi in sede di atto per gli oneri di condominio mi sembra un po' una leggerezza eccessiva. Oramai questo avviene, ma se avviene in misura molto rara, però le devo dire appunto, Presidente, che avviene. Io tra l'altro poi volevo raccontare anche un caso di cui sono stata direttamente non coinvolta, perché è successo ad un mio carissimo amico, effettivamente con l'agente immobiliare ha avuto una discussione che è stata veramente secondo me vergognosa, perché poi lo racconto e lo faccio commentare anche direttamente ai presidenti delle due associazioni. Una trattativa tra l'altro per una compravendita che si è conclusa in un mese, che è un miracolo di questi tempi, una casa quindi per cui si è fatta una proposta tipo a fine novembre e si doveva rogitare entro fine dicembre. Nella sostanza ha deliberato il mutuo questo perito che deve andare a fare il controllo dell'abitazione come prassi per conto della banca, è andato con un qualche giorno di ritardo e l'agente immobiliare ha dato in escandescenza, prendendosela naturalmente con il mio amico, dicendo io ti faccio saltare la trattativa se questo perito non si sbriga, per cui veramente ci sono dei comportamenti ancora in giro inqualificabili, direi. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri. Abbiamo persino scomodato Placido Domingo per la trasmissione di oggi, quindi veramente la fantasia non ha limiti. Insomma, come ci dobbiamo rapportare con il nostro agente immobiliare, quello che ci serve per concludere la trattativa per diventare proprietari di un'abitazione, qualora fosse l'agente che ha l'esclusiva, appunto, o meno. Anche diciamo anche questo aspetto, Paola Dezza, dell'esclusiva. L'agente immobiliare, non tutte le agenzie lavorano nello stesso modo, no? Magari una persona che vuole mettere in vendita la sua casa può dare il suo incarico a più professionisti, mentre qualche società invece chiede una condizione di esclusiva. Qual è la pratica più diffusa nel mercato italiano? Le agenzie puntano sempre ad avere l'esclusiva, anche perché loro investono su un appartamento in termini di pubblicità, di lavoro, di ore, di impegno, e quindi preferiscono avere l'esclusiva. Diciamo che il cliente ha la possibilità di contrattare adesso la provvigione, magari concedendo l'esclusiva riesce ad avere una provvigione più bassa. È anche vero che per l'utente finale, per chi cerca casa, è meglio rapportarsi a un'agenzia sola che vedere l'annuncio dell'appartamento in tante agenzie che magari lo pubblicano, mi è capitato di vedere, anche con prezzi diversi, quindi questo crea abbastanza confusione anche sul mercato. 800 24 00 24, continuate a rilasciarci le vostre testimonianze, perché così la trasmissione diventa sicuramente più interessante. Lorenzo da Siena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, io sono da Siena, anche se la situazione qui è abbastanza un po' delicata in questo momento, ma ne verrete fuori, ne sono sicura, Lorenzo, con grande tranquillità. Sì. Dunque, io chiamo non tanto per una compravendita, ma sull'affitto, nel senso che mi sono ritrovato spesso all'estero a affittare case, mentre in Italia noto che tutte le agenzie chiedono la provvigione, o comunque una percentuale, sia all'affittuario che al proprietario. Volevo sapere perché. Tra l'altro, Lorenzo, credo che questo valga anche per la compravendita, perché all'estero, Paola, mi sembra che anche in questo caso la provvigione la versi solo chi vende. Esatto, in Italia è l'unico caso in cui la versano tutti e due le controparti. Ci facciamo rispondere dal presidente della FIAIP, Paolo Righi. Presidente. Sì, la provvigione non viene pagata da ambo le parti solo in Italia, ma anche in altri paesi d'Europa. Ma il fatto è sostanzialmente di diritto, cioè l'agente immobiliare è terzo alle parti, quindi deve garantire ambedue le parti, mentre nel diritto anglosassone, negli Stati Uniti, Inghilterra, nei paesi del nord comunque, e anche in Francia, l'agente immobiliare è un venditore. E quindi cosa accade? Che il tema proposto più volte è quello che viene anche impugnato da alcune persone qui in Italia, è quello del fatto che l'acquirente paghi una provvigione. Nei paesi anglosassoni la provvigione di media va dal 6 al 9%. Che viene pagata solo dal venditore. Presidente, posso dirle che Paola Dezza scuote la testa, che le sembra che stia indicando una percentuale un po' alta? Paola, vuoi parlarci tu con Presidente Righi? No, nel senso, magari ne sa più di me. Sicuramente noi abbiamo fatto delle indagini in passato, diciamo che forse l'Italia non è l'unico, però se diciamo paesi del nord, Inghilterra, Francia, abbiamo già detto mezza Europa in cui la paga solo il venditore, e io ricordo che era tra il 5 e il 6%, non di più, però magari magari le cose sono memoria... cambiate, Presidente. Ma dipende sempre dalle fonti. Noi facciamo parte di un'associazione europea, quindi conosciamo bene, ma vi rimando comunque alle statistiche di Doing Business, che è un ente terzo internazionale, dove proprio si possono vedere le incidenze delle provvigioni negli affari immobiliari. Allora, tornando a noi, è una questione di concetto, cioè nei paesi anglosassoni l'acquirente è tutelato tra virgolette, cioè nel senso che l'agente immobiliare assume la forma di venditore. In Italia, diritto latino, invece l'agente immobiliare deve essere terzo alle parti, mettendo in contatto tutte e due le parti e tutelandole. Noi riteniamo che questo metodo e questa modalità tuteli effettivamente tutte e due le parti, e che l'aggravio che in Francia ha il venditore sulle provvigioni viene, come in economia tutti sanno, poi ribaltato assolutamente sull'acquirente. Quindi non ne farei una questione di risparmio o meno, ne farei semmai, se si vuole, una questione di logicità. Quindi io penso che la tutela delle parti sia molto più importante. Ma sì, Presidente, poi tra l'altro voglio dire, se la trattativa è condotta con soddisfazione da parte del committente, io credo che non sia nessun tipo di problema versare una provvigione. Ecco, volevo disturba però un po' di più quando le trattative non vanno a buon fine, esatto, con serenità, ecco, tutto ecco lì. Su questo tema volevo rimarcare il fatto che già il codice civile prevede una cosa che secondo me è desueta, cioè che l'agente immobiliare debba mettere a conoscenza le parti delle circostanze a lui note o conoscibili. La giurisprudenza in effetti oggi ha ribaltato completamente questo dato, ci sono tante sentenze, per cui l'agente immobiliare è obbligato a rendere noto al cliente le cose che lui sa, ma anche quelle conoscibili con la media diligenza. Quindi c'è la necessità che noi ribadiamo più volte e i nostri associati stanno adeguando a questa attività e anzi si sono già adeguati, devo dire, di fare nella parte precontrattuale, quindi quella che prevede tutta una serie di attività prima di passare al momento del rogito dal notaio, tutta un'attività ispettiva che l'agente immobiliare, a cui l'agente immobiliare non si può sottrarre, quindi spese di condominio, l'atto di proprietà, se ci sono o meno delle ipoteche. I cittadini devono pretendere dall'agente immobiliare questi dati per avere poi una compravendita certa e sicura. E serena. Silvia ci scrive: buongiorno, noi abbiamo acquistato da un privato, risparmiato il 3%, quindi senza la consulenza dell'agente, grazie alla guida del Sole 24 Ore. Cara Paola, non saranno molto contenti Angeletti e Righi, però insomma c'è anche chi, avendo anche la disponibilità di molto tempo, perché anche questo c'è da dire, sicuramente la figura dell'agente immobiliare ci risparmia anche in tutta una serie di adempimenti che poi dovremo sostenere da soli e non tutti abbiamo nel tempo né la capacità anche di farlo, per cui però voglio dire c'è anche un mercato totalmente libero che non è necessario che si riferisca agli intermediari. Allora andiamo a sentire adesso Roberto da Bari e Roberto da Roma, faccio fare la domanda ad entrambi rapidissima. Roberto da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Sì. Buongiorno. Sì, no, la mia domanda era molto breve. Cioè, io quando trovo una casa che a me piace, quindi magari un'agenzia immobiliare, come faccio a capire se la gente che mi segue è comunque una persona qualificata, certo, e che mi possa fidare? Esatto, no? Tra l'altro c'è da dire che sicuramente ci sono i grandi network che magari possono rappresentare già un indice di sicurezza, però magari a qualche volta può anche esserci scritta una bella insegna tipo Giovanni Rossi Immobiliare, uno che ne sa se questo ha tutte le caratteristiche per poter operare con appunto professionalità sul mercato. Roberto, adesso le faccio rispondere, ci metto anche l'esperienza di Roberto da Roma, a cui invece la trattativa non è andata a buon fine. Perché è stata colpa dell'agenzia immobiliare, Roberto? Ascolti, la tematica non è proprio semplicissima, le rubo qualche attimo. Tutto è nato con un mio acquisto, con un atto irrevocabile redatto dall'agenzia, la controparte era d'accordo, abbiamo stabilito un prezzo ed ho lasciato un assegno d'impegno per rimandando tutto quanto a distanza di alcuni mesi per il rogito finale. Nel frattempo la proprietà ha deciso di non vendere più l'immobile. Ah. E il mio avvocato all'epoca mi ha costretto a pagare le provvigioni all'agenzia in quanto la conclusione dell'atto secondo lui era stato redatto nei termini compiuti dell'atto di vendita e per rinuncia, quindi il proprietario era tacciabile di azione legale, tant'è che sono 11 anni che sto in causa per una storia che non finirà forse mai più. Incredibile. Incredibile. Quindi io voglio sapere se il diritto di avere questi soldi l'agenzia fino a che punto era così legalizzato, anche se poi me l'ha confermato. Anche perché non è stato lei a far saltare la trattativa, Roberto. Assolutamente no. Se lei vede l'atto redatto su carta intestata dell'agenzia, c'è l'irrevocabilità su doppia firma data dal venditore e dall'acquirente. Allora, ci rimane un minuto, Roberto, vorrei sentire subito i nostri ospiti. Angeletti, se ce la fa una risposta breve. Roberto è la vittima di questa situazione, per quale motivo deve tirar fuori anche dei soldi? Io non lo riesco a capire. Purtroppo ha stipulato un contratto con l'altra parte, contratto che lo sta portando anche proprio a una causa che sicuramente vincerà, purtroppo la giustizia italiana è molto lunga e quindi nel rapporto con l'agenzia il contratto si è definito, su questo il suo avvocato gli ha confermato la situazione. È chiaro che in queste situazioni l'agenzia si dovrebbe fare parte diligente per evitare, perseguire e soprattutto al limite per non consigliare tempistiche molto lunghe tra una scrittura privata e un atto, perché chiaramente poi possono avvenire degli incidenti di percorso. Va bene, allora torneremo su questi argomenti, promesso, perché non vi dico quante testimonianze e quante persone avrebbero voluto intervenire appunto per poterci raccontare cosa è accaduto loro. Paola, quindi ci rivediamo presto. Grazie a Paola Dezza, Paolo Grazie Righi, presidente della FIAIP, Valerio Angeletti, presidente della FIMA. Ci sentiamo domani, anzi per voi, ahimè, io ci sono anche stasera a Focus Economia. Buona giornata a tutti.